buffa più che mai, con questa tua severità. Vuoi che stia zitto, invece no, e l'alcol che mi fa parlare mi dà il coraggio che non ho di confessar la verità, che sono stufo sia di te che della tua malignità e del tuo corpo che non sa tentarmi nell'intimità. Ne ho già abbastanza, ti dirò, di quel carattere che hai, esasperato finilo, perché tu esageri, lo sai, sì, sì che lo sai, e come no, a volte ti strangolerei. Dio, 5 anni adesso tu ti lasci andare sempre più. Ah, che spettacolo che sei, con quelle calze sempre giù, mezza truccata e mezza no, coi bigodini ancora su. Io mi domando come può un uomo aver amato te. Io l'ho potuto ed oltre a ciò la vita ho dedicato a te. Sembri tua madre che non ha nessuna femminilità. Quando c'è gente salti su, mi contraddici, parli tu, con il veleno che c'è in te distruggeresti non so che. Bella fortuna che trovai il giorno che io ti incontrai. Se tu tacessi, ma ora tu ti lasci andare sempre più. Sei un tiranno che non ha nessuna sensibilità, però malgrado ciò che so, tu sei mia moglie ed è perciò che basta poco per tentare adesso di ricominciare, per dimagrire un po' di sporco, resta allo specchio un po' di più e poi sorridi e finirà l'aria di gelo intorno a te. Invece che tu mi detesti e fuggi come dalla peste, prova a tornare quella che un giorno, tanto tempo fa, venne cantando incontro a me. E come tanto tempo fa ti terrò stretta affinché tu ti lasci andare sempre più.